Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato, una misura buona, pigiata, colma e traboccante, vi sarà versata in grembo, perché con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi in cambio. Parola del Signore. Tante volte nel Vangelo troviamo questo parallelo tra il comportamento nostro e il comportamento del cielo. Come si fa in cielo? Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo. Il Padre vostro celeste fa piovere sul campo del buono e del cattivo, dunque anche voi. E guardando questo, l'abbiamo sentito anche oggi, non condannate e non sarete condannati, la misura che usate per gli altri sarà usata per voi. Io credo che questo faccia nascere in noi, almeno in me, un duplice atteggiamento. Primo, l'atteggiamento di dire: hai ragione, Signore, hai ragione. Se siamo tuoi figli, non possiamo fare diversamente. Se tuo figlio ha perdonato a chi lo uccideva sulla croce perché non sapevano quello che facevano, anche noi siamo chiamati a fare altrettanto. È giusto, Signore, che tu ci poni davanti il tuo modello e il tuo esempio. Ed è il primo passo. Ma come secondo passo dobbiamo subito dire: ma io non sono capace, Signore, ma io non ce la faccio. E allora perché tu hai voluto darmi un comando che sembra superiore alle mie forze? Ma forse tu hai voluto non darmi un comando superiore, ma darmi un modello, un esempio, affinché quando io nella vita mi trovo a confrontarmi con qualsiasi realtà del mondo, io tenga presente che tu, Signore, vegli su di me. E allora anche quando ci viene da dire: devo fare uno sforzo più grande delle mie capacità, devo portare una croce più grande delle mie capacità, ricordiamo sempre quel come, che il Signore non ci dà come un obbligo, ci dà come uno stimolo. Non ce lo dà per dire: siccome tu non hai fatto come ho fatto io, allora io ti condanno. Ma te l'ho dato affinché tu tenga presente che come faccio io, così tu dovresti fare. E allora io sento questo desiderio di fronte a qualsiasi azione della mia vita, prima di alzare gli occhi al cielo. Anzi, ho imparato anch'io da altre persone e lo condivido a voi, alcune volte quando devo fare qualche passo difficile, quando devo compiere qualche azione pesante, dico a Gesù: Gesù, dai, lo facciamo insieme? Può sembrare una cosa fanciullesca, però, Signore, devo celebrare messa, lo facciamo insieme? Devo fare questa predica, la facciamo insieme? Devo affrontare un esame clinico, lo facciamo insieme? Devo rivolgermi a una persona per chiedere una cosa, lo facciamo insieme? Quando io mi ricordo, perché bisognerebbe vivere sempre nell'attenzione, no? Spirituale. Quando mi ricordo e dico: dai, Signore, anche queste scale che mi pesano, le facciamo insieme?